Buonasera. Buonasera. La tela sonora, siamo giusto un minuto in ritardo, ci scusiamo con i nostri amici radioascoltatori, con me qui in radio Giulietta Lachi e Gentian Selà che è dietro, diciamo, manovra alle macchine. Questa sera è una sera particolare, beh, ormai tutte le nostre sere sono particolari, perché abbiamo, per la prima volta da quando abbiamo iniziato la tela sonora, non abbiamo diretta. Nel senso che non avremo i nostri amici poeti con noi presenti in radio, ma abbiamo le loro registrazioni e abbiamo deciso, con l'autorizzazione di Marco Munaro, direttore del Ponte del Sale, di incominciare a esplorare un libro molto bello che è stato curato da Maurizio Casagrande, edito appunto dal Ponte del Sale, il cui titolo è In un gorgo di fedeltà. E racchiude 20 dialoghi con 20 poeti italiani. Questa sera abbiamo scelto due poeti, Azzurra D'Agostino e Luciano Cagnato. Li abbiamo scelti così a caso, non sono nel primo, nel secondo, nell'ultimo, nel penultimo. E era molto bella quella frase che abbiamo letta, se Giulietta la vuoi dire. Volevo dire che infatti non è una collezione di 20 interviste, ma una partitura di 20 canti, dice Luigi Bressan di quest'opera. Ecco, allora poi magari vi raccontiamo anche chi è Luigi Bressan, perché ha curato la prefazione di questo libro bellissimo, che il libro appartiene alla collezione Orbis Pictus. Dovete sapere che il Ponte del Sale è una casa editrice molto, molto nascosta, molto, molto intima, edita libricini particolarissimi, alcuni per i bimbi, alcuni per i più grandi, e questo infatti è un libro particolare, è proprio un librone, un libro molto grosso, molto bello anche da tenere in mano, con delle foto molto belle, tutte in bianco e nero. E dicevo, in questo libro ci sono delle poesie scritte in dialetto, quindi la particolarità di questo libro è finalmente quella di, perché no, editare anche poesie in dialetto. Infatti in alcune registrazioni di questa sera ci sarà questa possibilità di ascolto. Allora, prima di mandare la registrazione di Azzurra, magari dire, Giulietta, se hai voglia, due parole nella prefazione. Possiamo anche leggerne una parte per rendere anche omaggio a Luigi Bressan, perché è un po' l'introduzione di quello che sarà il lavoro di Casagrande. Che ne dici? Vuoi leggere tu? Hai voglia? Inizio io. In uno dei suoi affondi critici, intitolato Antipoesia dell'ego, Guido Ceronetti sostiene che i poeti non valgano più niente, essendo ormai quel che c'è di più brancicante nel vuoto creato dalla tecnica e dalla distruzione di vita che ha operato alla superficie della terra. Non avendo i loro versi fondamento nell'essere, ci vorrebbe quindi qualcuno che interpretasse le pene di tutti, se non ne fosse impedito da un bavaglio occulto insormontabile. Di poeti comunque ce ne sarebbe un numero insensato. Se ciò può costituire un antidoto allo scrivere, e quindi al leggere versi, ancor più vane e oziose possono apparire le opinioni di chi invece se ne occupa di proposito. Incominciando a sfogliare in un gorgo di felicità, cercando di tenere a bada il subdolo effetto di tanta ammonizione, ma anche di ottenere qualcosa di conforto dal curatore, così parto dalla postfazione. Dove egli, dopo aver concluso le interviste ai poeti, alcune molto lunghe, si sottopone a sua volta a una fila di domande. Qui sembra rivendicare una sostanziale neutralità, afferma di aver incalzato i poeti con la sua tenacia, dalla pianta spaccasassi, da una posizione marginale, di averli provocati sui diversi livelli e aspetti del loro agire per trarli allo scoperto. Anche il sommario bilancio del proprio lavoro si mantiene su osservazioni oggettive, mentre si apre con sincerità alle concomitanze umane e personali. Beh, diciamo che allora È una prefazione, come giustamente hai detto tu, Giulietta, molto profonda, molto anche l'utilizzo di alcuni termini che non sempre si sentono, si ascoltano, brancicante nel vuoto, oppure come hai letto tu prima, ho letto quella bellissima, spaccasassi da una posizione marginale. Ecco, già queste sono parole che dovrebbero in qualche modo sollecitare in voi una preparazione all'ascolto di quello che sarà poi i brani scelti che abbiamo appunto trovato. Abbiamo avuto l'occasione di parlare con Marco Munaro e abbiamo ottenuto le registrazioni dei poeti, quindi ascolteremo proprio le poesie lette da loro ed alcune in dialetto. Una ricerca quindi che per l'Azzurra d'Agostino, quando è stata intervistata da Casa Grande, la porta a considerare la scrittura come una ringhiera verde, un orizzonte, anche nel senso di confine, e assieme un ristoro. Azzurra sente la poesia come qualcosa di privato e anche di molto collettivo al contempo. Non è qualcosa che ha propriamente scelto, ma è qualcosa che è venuta così. Le è venuta incontro, colpendola. L'unica cosa che ha potuto scegliere è di prendersene cura. E io trovo che questa sia molto bella, no? Si dice spesso che i libri non vengano scelti, sono loro che scelgono noi quando andiamo in libreria. E in questo modo è come se la poesia avesse scelto Azzurra e Azzurra abbia semplicemente deciso di prendersene cura. Quindi significa una sorta di rispetto perché ha compreso che deve rispettare quello che scrive. Quindi metterlo al suo meglio possibile. Questo è sì restare aperti a quello che c'è da scrivere, ma anche studiare ed essere attenti lettori. Lettori non solo di libri. Il mio libro è nato così, dice Azzurra. Viene da un amore che è iniziato molto tempo prima ed è rimasto a depositare a lungo. Quindi una specie di, se vogliamo, incubazione. E magari vi raccontiamo anche qualcosa, visto che Giulietta si è preparata. Qualcosa di Azzurra, della sua, innanzitutto da dove viene e poi di questa sua capacità ineluttabile, se vogliamo, di scrivere, non solo parlare, ma quindi scrivere in due lingue perfettamente. E una di queste due lingue, appunto, è un dialetto. Ma lascio il microfono a Giulietta, così si spiega meglio. Spiego Azzurra, diciamo, Sì. la spiego con qualche dato molto materiale. È nata a Porretta Terme, ma a 18 anni si trasferisce a Bologna per laurearsi in filosofia, qui inizia a collaborare con alcune riviste letterarie, prima fra tutte il trimestrale Demon, di cui oggi è redattrice. E pubblica diversi testi in riviste, giornali, antologie, tra cui possiamo citare Voci di poesia, edito da Pendragon nel 1997. È nel 2004 che pubblica la sua prima silloge in dialetto e in italiano. Adesso non so, posso provare a pronunciare il titolo. Dincinciullà, qualcosa del genere, Dincinciulla. che vuol dire da nessuna parte. E niente, direi possiamo Sì, ascoltare direi già che qualcosa di suo, se forse. sì, gente fosse ok. La penombra rovesciata sulla soglia e Roma tutta là fuori, oltre il blu della tenda. Sciolta in un unico respiro. Sciami di palazzi, un'unica grande guerra di stoviglie e abbaiare di cani. Thank you. avesse medicina. Com'è umano questo tempo, tutto schembo sulla sua ossatura di silenzio, mentre le parole che non servono a fatica ricamano la vita fino all'orlo delle ciglia, nel nudo fondo dello sguardo. Me aiera le, caturneva ca. Aiera int la macchina, in veta la colina, e guardeva in zò. Ampiasrie saver, com'ella che me, qua soda par me, con sulamenti coli, due elbere, quater sas, e tot cletra roba int la testa, com'ella che me, aiari da siger. Com ti stupid, da siger, xavot cazzia da siger. Non so mia, me amper, axebel, canfana pora. Me aio pora, una pora che tutti moran, senza che me sia sta brisa bone dirgli a basta com'ien bel. Me torneva ca int una macchina xevlosa, can basteva mia la strada per dir amig, meder, peder, noni, montagna, stil, ma vida perduner, sanson mia bona, sei non pece mer vueter, an li trov mia. Als dana pet ne dalla mei, as guerda in tal spec cui oc slarga. Bene, come avete ascoltato, il primo pezzo quasi musica sperimentale con sottofondo le parole di Azzurra, il titolo della poesia Polis II, Polis II, mentre il secondo pezzo in dialetto. Ecco, prima poi di ascoltare ancora i pezzi che abbiamo di Azzurra, volevo leggervi qualcosa che lei stessa dice a proposito del suo linguaggio. Quando scrivo uso vari linguaggi, prima di tutto perché non si è una cosa sola, inoltre perché sto ancora sperimentando, non sento di essere approdata a un linguaggio unico e definitivo e spero di approdarci molto tardi, o magari mai, sinceramente. Le tre sezioni rispecchiano un po' quello che sentivo nei tre linguaggi usati, venuti per loro conto. La prima, in dialetto, non ha titolo, perché lo stesso titolo del libro ne è la chiave. Il dialetto non è la mia lingua madre, quindi sono costretta a usare parole semplicissime, e forse per questo di una forza che nell'italiano non sento. È una lingua che viene dal ricordo, da come l'ho sentita parlare dai miei nonni. Non ha bisogno d'altro, né di me, come dire. La seconda parte, dire corpo, contiene poesie in italiano che hanno alle spalle il tentativo di tirare fuori con le parole un contatto con ciò che parola non è. Con l'italiano questo è meno fluido. Ho sentito il ventre del linguaggio contrarsi, la nervatura irrigidirsi. Scrivere poesia nella propria lingua madre è qualcosa di fisico, quasi. E inoltre è qualcosa di molto intimo. E il corpo è qualcosa di molto intimo per me. La terza sezione si chiama semplicemente dire, perché è nata da sé. Ho lasciato che quello che in quel momento doveva uscire uscisse. Lì ne ho sentito davvero il piglio civile, una sorta di dettatura. È stato un gesto d'amore, davvero. Ricordo che mentre scrivevo mi veniva in continuazione da piangere, come se davvero non fosse qualcosa che dipendesse precisamente da me, come se anch'io leggessi per la prima volta quello che stava uscendo, che al contempo era qualcosa a me di molto caro e vicino. A pensarci sembra strano. Benissimo. Da riflettere, non ci avevo mai pensato effettivamente che si potesse scrivere poesia in dialetto e che invece... Per quanto riguardava quando Azzurra dice che l'italiano è meno fluido, che sente il ventre del linguaggio contrarsi, molto particolare, mentre per il dialetto è più qualcosa di immediato, anche se non è la sua lingua madre, utilizzando parole semplici riesce a dare più immediatezza alla poesia. Certamente è strano che sia più immediato quello che non è la sua lingua madre. Molto. Però è vero che il dialetto, anche non capendolo, comunque comunica molto, perché è molto più arcaico, ci sono dei suoni più fisici quasi, forse. Tu parli dialetto? No. Un dialetto qualsiasi, neanche. Però giustamente, Giulietta, dicevamo che la tela sonora è un po' una, come caratteristica, al di là della parola e del suono, al multilinguismo. E perché non utilizzare il dialetto anche come una lingua a sé, una lingua che magari non è parlata nelle istituzioni europee, qua a Bruxelles, Europa, capitale dell'Europa, però riprendere il valore del dialetto e quindi, come dicevi, ritornare alla arcaicità delle, sì, delle tradizioni. Io penso che l'apertura al mondo non è che debba passare per l'abbandono del locale, allo stesso modo anche parlando delle lingue. Secondo me è l'immaginazione che dovrebbe aiutare a comunicare, e quindi una poesia, anche se letta in dialetto, che magari non si capirebbe un testo di legge in dialetto, però una poesia si sente comunque. Certo, e forse aveva molta più forza quando Azzurra ha letto in dialetto, sì, che quando ha letto in italiano. Sì. Vero? Ascoltiamo ancora qualcosa. Sì. Gente, ascoltiamo le altre adesso. Grazie. Als dana pet ne da la mei. As guerden tal spec cui oc slarga. Comunque ans ved mia. Aie tot das briger, tut chi qui da fer, na furia, na più fatta roba, via, ndem, a so pronta l'ora. Prima aie la cisa, i panchet duri, fiur, e pritca bacaia, l'alda implicia come solit, e dop la terra, e bus, indoval meten denter, na massa dan al bur, in ciuncan discora cun teg, ciuncal seppen dov ti, e tempi sa slontena, e chi etter chi ruien fort, e po brisa più nient, solamente un gran silenzi, e la cemen pes. Chissà se è poi vero, che ogni pianta è da per sé, e che estranea è foglia alla foglia, e che di solitudine immensa si veste il giardino. E così anche noi, rinserrati nei palazzi, tra le cose, con le facce indurite, chissà se poi è vero. Poiesis significa fare, a Pierluigi Cappello. Io scrivo sempre curva, con quel raccoglimento da pioggia fuori, affratellata dai miei fogli sui ginocchi a tutti quelli di prima e di poi che da altre sponde sui fogli si sono chinati. Siamo stati chiamati, mi ha detto una volta qualcuno, dal zufolare lento delle cose, da quel comporsi dell'aria, dal farsi giardino degli occhi. Ma si è tanto soli, ho pensato, mentre il lume mi costruiva l'ombra in silenzio e intorno tutto moriva, si riduceva a ciarpame. Volevo solo ridestarmi ed essere altro, un qualcosa di immediato da cogliere, in un solo sguardo, senza feritoia all'altro mondo. Ma non è vero, sai? Io qui resisto, noi tutti resistiamo, un cordone di poveri ciechi, quasi buffi a vedersi, in questo umido di acqua ai fianchi che è la terra, una trincea dove unico bagliore è l'argento della catenatura. Ma c'è luce, c'è aria, c'è l'umido delle bocche, c'è piangere bene, c'è bambino, c'è parola, c'è che c'è tutto nuovo ogni volta. Ecco, questa era Azzurra d'Agostino e vorrei leggervi qualcosa che Azzurra d'Agostino ha detto sul dialetto. Il dialetto ha immediatezza e tenerezza, è rude e così saggio da proteggere quello che viene detto. Non ci sono parole toccate dalla pubblicità, ad esempio, nel mio dialetto. Occorre passarci in mezzo, a mio avviso, per sapere dove trovare le stesse cose, in lingua. Il dialetto, quando lasciato depositare, non è mai retorico o fiacco. Credo che vada accolto. Non so quanto questo abbia a che fare con lo sperimentalismo. Certo, è necessario avere contatto con più linguaggi per scoprire infine quello che è più congeniale al proprio modo di scrivere. Ma non sono per lo sperimentalismo fine a se stesso, qualcosa che è tipico di certe avanguardie, che sono fuori completamente dal mio gusto. I primi dialettali che ho letto sono stati Trilussa a scuola e Totò con mio nonno paterno. Poi sono venuti gli altri, innanzi a tutti Franco Loi. Il dialetto del libro è una lingua mista. Ci sono anche parole inventate. In parte, forse, non è del tutto comprensibile nemmeno a chi quel dialetto lo parla quotidianamente. Ed ecco che torna questo discorso della fantasia, dell'inventiva, che non è assolutamente qualcosa che resta dentro i confini. Brava, brava Giulietta. Senti, poi devo dire che Casa Grande è molto, veramente magistrale durante questa intervista. Stuzzica molto Azzurra con nomi, fa cognomi, chiede che cosa ne pensa, per esempio chiede Tommaso Moro, Cacciari, insomma fa delle domande abbastanza dirette, e Azzurra invece niente, Azzurra risponde molto molto gentilmente. Parla anche di Guccini e di De André e Dalla, quindi ancora molto bello quando Azzurra dice che scrive versi in un momento di fiducia e poi in un giorno le viene in mente: ecco, mi metto qui, aspetto, desidero essere qui pronta. Poteva anche non arrivare niente, ma siamo vivi, no? Qualcosa arriva sempre, insomma. A un certo punto mi pare di aver intuito che qualsiasi forzatura, qualsiasi ansia, avrebbe soltanto fatto male alle parole e al loro modo di uscire fuori. La cosa più importante non è solo la sapienza di come scrivere, ma il guardarsi dentro, l'avere il coraggio di mettersi a nudo. Il poeta, così come il musicista, il pittore, l'artista, insomma, è nel rischio, perché ha il compito di affrontare gli abissi dell'umano e non solo dell'umano. E per questo, certo, non ci vuole fretta, ma solo il coraggio di esserci, in quell'attesa, lì, che arrivi il modo giusto di esprimere quello che c'è da dire. E inoltre, deve avere il coraggio anche del silenzio, che è il più doloroso, quella consapevolezza amara di doversi trattenere, se non c'è davvero il momento necessario, che è un misto di forma e contenuto. È vero, verissimo, che l'artista è nel rischio perché ha il compito di affrontare gli abissi dell'umano. È come se noi chiedessimo, in fin dei conti, all'artista di fare un po' quello che noi non siamo in grado di fare. Gli chiediamo di dare una risposta a quelli che sono i nostri dubbi, le nostre sofferenze o tutto ciò che non ci risulta chiaro, che non riusciamo a capire. E poi ce la prendiamo con l'artista, perché se il prodotto della sua arte non ci piace o, peggio, non lo capiamo, tendiamo a giudicare l'artista. Quindi l'artista ha, se vogliamo, una doppia sofferenza. La prima, che è quella che si mette in gioco, si mette a nudo perché crea qualcosa, e la seconda è quello di essere giudicato. Quindi mi domandavo sempre che cosa hanno gli artisti nel cuore e nella testa, questa esigenza di far uscire da sé, come diceva prima, le parole. La cosa più importante non è la sapienza di come scrivere, ma il guardarsi dentro, l'avere il coraggio di mettersi a nudo. Quindi che cos'è che spinge poi, in fin dei conti, il poeta, l'artista, a fare fare arte. Ma l'arte. Io mi chiederei cosa spinge quello che non la fa a non farla. Vedi? Mi sembra molto più naturale esprimersi e far uscire quello che c'è in fondo a ciascuno di per noi. Te, per te è così, ma ci sono tantissime persone che hanno difficoltà estrema a far uscire ciò che provano e ciò che sentono. Forse questa cosa del giudizio, comunque hai detto giudizio, hai detto, non mi ricordo l'altra parola che mi ha fatto, ma mi sembra che andiamo su qualcosa di molto anche culturale, no? Sì, forse è vero, che forse appartiene più alla mia generazione che non alla tua. Più forse è una questione, non è che ci sia tutta quella generazione, però anche questa cosa nord-sud, secondo me è molto meridionale. Molto. Meridionale, in senso largo, però. Sì, è vero. Bene, allora, prima di passare allora a parlare di Luciano Cagnato, vogliamo ancora dire due cose che abbiamo letto di Azzurra prima in quella bellissima intervista, non quella di Casagrande, ma in quell'altra tratta da Tellus Foglio. Non so dove sia, sarebbe interessante, eccola lì sotto. Avevo letto una cosa molto bella. Ah sì. Allora, ecco, mi piaceva il discorso di ritornare un pochino alla capacità di leggere in due, di leggere e di scrivere in due lingue. L'intuizione poetica e l'adesione alla lingua, qualunque essa sia, sono il felice approdo nei quali la riflessiva capacità di essere, nel testo di Azzurra d'Agostino, si presenta già ferma, portatrice di uno stile meditato e sicuro, dove il dominio tecnico non prevale sulla parola, tanto quanto la spontaneità del dialetto si coniuga e trova agio nello scritto. Quanto accade non deve stupire, soprattutto non è frutto di calcolo. È una dote innata che la D'Agostino ci offre, distillando testi mediamente brevi, affinati, tendenti alla narrazione per immagini, dove il tessuto della narrazione movimenta le sequenze in cui prendono avvia microcosmi che riportano al ricordo per slanciare lunghissimamente al qui e ora, quasi ad invitare ad un cammino, a non interrompere la percezione delle cose e delle persone. Se ben noti, cara Giulietta, ho letto qui e ora in italiano e non in latino. Dovete sapere che Giulietta è l'ideatrice di una parte di un incontro che c'è ogni mese, Hic et Nunc, e mi ha fatto specie stamattina quando ho letto questa bellissima e breve interpretazione a cura di Fabiano Alborghetti, che ho letto su Tellus Foglio. Tellus Foglio è una rivista, un sito, ma soprattutto una rivista web dove si leggono moltissime interessanti anche interviste e comunque recensioni di libri, e quindi sono andata a cercare chiaramente quello di Azzurra. E poi ho, con sorpresa, e questo sinceramente non me l'aspettavo, ho visto che Azzurra ha anche collaborato con Lieto Colle. Infatti vi volevo leggere due brevissime poesie che sono tratte dalla raccolta Con Ordine, Lieto Colle 2005. La prima si intitola Al limite. Appoggio la fronte alla finestra, poco diversa da una goccia, che quando piove scivola lenta, e allora penso alla tenerezza, alla mia poca dimestichezza. Con ordine. Disposte le cose stanno in un ordine da mano venosa, la Madonnina con l'orologio sopra il televisore e intorno l'odore di cucinato e il frigo che ronza. Ordinaria è la mostra del tempo, lo star dentro le ossa macinate, un giorno poi, un altro, fino a lasciare tutto così, inasprito dal mancare. Bene, direi che ci vorrebbe ancora parecchio tempo per esprimere tutto quello che, che Azzurra ha scritto, soprattutto in dialetto, e noi non, nemmeno io, non so, Giulietta, non sono capace a leggere il dialetto romagnolo. E direi che mandiamo magari un po' di musica del nostro amico Clifford Borg, che oggi si trova a Bruxelles e che la prossima settimana ha organizzato un concerto, e questo è un brano che sceglierà Gentian dall'ultimo album di Clifford. Ringraziamo Clifford per averci dato la possibilità di ascoltare la sua musica, e poi ci ritroviamo sempre qui alla Tela Sonora con l'altro protagonista di questo libro di Casa Grande, Luciano Cagnato. Thank you. Abbiamo ascoltato il pezzo Emergence, tratto dall'album Origin di Borg, Clifford Borg, il nostro amico, che salutiamo con tanto amore, con tanto affetto, alla tela sonora. Adesso invece ascolteremo alcuni brani di Luciano Cagnato, che è l'altro, uno dei tanti, dei 20 protagonisti di questa collezione di 20 canti, come se fosse una partitura. Stanza 15. Sapienti, scrive respizi, ordini, aggiorna il poema cartè, ine sa che mi e ti semo sta, slusente brazzarse de misi, che mo perfetà el sercio della stessa storia da nafariva a ste bronze sfate camoda, tase aghi, misteri, analisi, cavolta il totì in numeri esterine, cinque dolori respira la stanza, a ste, come spettando un treno. Rami in pizza ore de osei, cabeca medole de sole e alle trasforma in zuri, piccia un tempo in cadenà, che fa disigni ranzeghi, vissi vuole il tuo geranio trarlo intera, neghè più gnanca guerra. E mis l'era cristal, andar de già sposà a matine, gevero de fresche saltea corece de nuvoi e saes, fin a sfantarsi in gatoi de fogo dentro le case verte della notte. E ti, cavare de luna affrontà sul mondo, te metegnea quar man in salvo dalla siora, e mi era immortal, planee coi tuoi pensieri al quert, sicuro anche a mi scaldà dal tuo silenzio curvo de parole, che d'indea picare a riderte degli occhi, dormia la bestia persa in te un gorgas de piera, e noi se navighea su alti, pi dei festuc che il vent incruna in aso e de blu, e dis che no ghe ne che baste de mondo per alzarse e traversar e là. Ma des che di par di sette mai scese na radisse un par un, i brusa tutti i castelli del sangue, da parte no ghe ne de forza bona per aiutarlo, par buttarlo in crescer che cammina e sgionf in matoni dei but, perché se in polvere suffiada in busie de ciaro logoi rampegadi a un logos che se anca il fusse da qualche parte orbo o corredin non savaria romai come ciaparne. Cordarone ci proximti clid coi canoni prova a spasemare il den del bis che ogni poche il gira na ciaveta sconta, birbo voltando l'occio ma spettando springo invece de rifarse Giuda e partorirse altro. Visite finite, grazie. Gesui tu è il rose rosarum rosis, pas pasa pan a meno bi fratto ci. Ti ricordi tu il dolce, i fighi de quei fondi sta, con l'essere che l'era una scala dreta dalla terra al ciel, ed io suffia sulla nostra rosta con nuvole de pana e se scondea celeste par rider sola la poiana che la vive e non la sa il parché, ma le ben pregarlo. E mi sicuro credee guardandote che il nostro mesodì rodesse in tondo, che l'ombra fusse un sbaglio canceada un batter cende seie, che il dì non fabbrichesse che maraveglie franche, un mar che non lo ingrespa neanche all'estro di un matio. E tant, ma tant pindrio tonono, frassen de mostacci e de caret, che il vea partì, viste de succhero in tel cor. E su, su là, coi angei de fogo, de na carne nova in paradiso, a Gena, alta de vacche e de mistero, su, col caval de oro, su, fin oltre ai cancei del dì, finché fioris le fate e l'aria l'en specio vivo che se varda, e sotto la rosa salva del paese zen de sasse gelsomin erba in odor taglià pra de acqua e bosch pensadi da un'idea de seda te mostrea che non morin no tutti se il bel e il buon e il grando vende ma giust senza far del mal se liga in sest per scarasarla tutta l'anima che cresce. se sconde il sole in sac, vien presto sera, le tossisie le va, s'impissa un erebo de scur, sui camp del tossaver pasqua asà l'inverno, e mi, no ho pi lancia, no ho pi spada contro il drago, te va, ovo de quel che son, da tut in creaturala mare, te va, de là dal tem, sol che partì, te farà da mamma i bras del niente. Il Po è padre-madre, patrigno-matrigna, ferita geografica e della memoria, dio limaccioso e vendicativo, drago che difende un dla pieno di misteri aperti a cannocchiale. In quest'ultimo senso è Acheronte. Chiedeva casa grande, ma in quale senso il Po si può considerare il fiume dei morti? Semplicemente a livello letterale, le vittime dell'alluvione che ti ha allontanato dalla terra natale, oppure avevi in mente altri possibili riferimenti simbolici? Caniato è nato a Pontecchio, immagino. E Casagrande dice: le tue radici, nonostante il forzato trasferimento a Conegliano, restano saldamente a Pontecchio nel Polesine, cui sei ritornato recentemente in occasione di una pubblica lettura dantesca in Rovigo. Tu stesso lo lasciavi intendere tra le righe del tuo commento del canto terzo dell'Inferno, quando proponevi un suggestivo parallelismo fra l'Acheronte ed il Po. E poi invece volevo dire sempre di Luciano che mi ha colpito le parole successive durante l'intervista, quando parla del viaggio. Partire, sia pure per diporto, è strappare fili, interrompere collegamenti, affidare a venti sconosciuti la fragilità della propria vela. Anche morire un po' alla propria storia per riemergere in altre. Ma allontanarsi per sempre è subire il taglio dell'arto nestico, assistere impotenti al crollo della propria struttura psichica, ricominciare da capo tessiture coi fili di altre lingue, di altri paesaggi, di altre sensibilità. Beh, ci pensavo, in fin dei conti noi tutti abbiamo abbandonato, ci siamo allontanati per morire un po' la nostra solita vita, la nostra solita storia, chi in Italia, chi in altri stati membri. E poi arriviamo qua a Bruxelles e sentiamo un po' il peso di questo distacco, ci sentiamo un po' come dei déracinés. E allora la tela sonora che cos'è? Effettivamente noi stiamo tessendo, stiamo facendo un po' il lavoro di Penelope mentre aspettava il suo sposo, tesseva, e noi stiamo facendo la stessa cosa, chissà, magari inconsciamente, la speranza di tornare o in attesa anche di eventi straordinari che potrebbero succederci nel prossimo futuro. O chi in attesa, per esempio, che torni l'Italia, che a essere Italia, sarebbe già molto. E quindi noi, anche se siamo lontani, cari amici di Radio Alma, non siamo poi così lontani dalla nostra patria e dai nostri luoghi amati, dove siamo nati, dove siamo cresciuti, perché noi stiamo tessendo. E la tela sonora, ci tengo a dirlo, perché comunque l'idea di Anna Maria Farabi è sempre stata questa, è quella di tessere intorno e di raggiungere un po' tutti, dando la voce ai poeti, dando quindi la possibilità ai poeti di, come questa sera hanno fatto Azzurra D'Agostino e Luciano Caniato, di dire la loro poesia, e nello stesso tempo per noi di tessere intorno a questa parola, anche attraverso il suono, col lavoro che stiamo facendo con la Troupe Nomade, di tessere un po' questa grande tela che coinvolge tutti, e non sappiamo, noi abbiamo iniziato questo viaggio, non sappiamo dove andrà e dove ci porterà. E quindi voglio ringraziare Luciano, che non conosco particolarmente così non siamo in amicizia profonda, ma ho imparato a scoprirlo, a conoscerlo un pochino di più questa sera grazie all'intervista di Casa Grande. L'intervista dura parecchio, ci sono tantissime cose, anche se vorrei, forse varrebbe la pena dire un pochino questa, la valenza che ha il Polesine, la valenza che ha anche la figura paterna, la figura materna per Luciano. Ci terrei a leggere ancora una parte prima magari di dare voce a lui stesso con l'ultima registrazione. Giulietta, non so se tu vuoi aggiungere ancora qualcosa. No, io direi di lasciare. Ok, allora leggo semplicemente questo che riguarda proprio la poesia. Nella poesia sono mescolati in modo inestricabile spezzoni di realtà, impressioni di lettura, lacerti di infanzia, maestri di poesia, graffi di sofferenza, illusioni e disillusioni. Il teatro è un Polesine mitico, il mio, suo, montato sulle sabbie mobili di una storia piena di rovi e uncini che mi lo scuotono. E non potrebbe che essere così. C'è poi la traccia sismica lasciata su Marco dalla lettura di E maledetto il frutto, un grido, un barcollare ed imprecare contro il male che ci avevano fatto. È un canto, forse. Nel mulinello vorticano inoltre schegge di versi che alludono a due poesie in dialetto da me scritte in occasione del suo matrimonio e della nascita della sua primogenita. Ecco, quindi un attaccamento, se vogliamo, anche a momenti così molto, molto familiari. E bene, allora speriamo di avere ancora tempo poi di salutarci dopo aver ascoltato il testo di Luciano. Comunque, un buon ascolto, preghiamo Gentian di mandare il pezzo. No te apidi, erbe de silenzio conduse il tuo saver par n'acqua scura. Cascada io oggi il temp cancea tutte le socrose, se fa roveto le rose del tuo Dio, e non le trova il dolce della parola nuova par cunarla intiera la pua della speranza. Panega sete crida, il sol è volta in trist le creste dei tovasi, vien dalla montagna i freschi e non te gode il quadro de finestre, mai pi la tua campana suonerà par la val del bon, dat via e il tuo dir che tut se giusta, il tuo voerghe ben all'ultimo che perde, farsi una ragion, elaborare il lutto, traversarli tutti i cagnin del bus, destrigarghe il gemo al mal che là strade e strade e non ghe n'ha nessuna. Voerse ben tirare un stris e fabbricarsi un amen, salvarse in bibbie de memorie. Dove, ma dove andata sei tu, persa pai pra la via, fior che bisogna vespe par trovarlo, carlina a caulis, occio del ciel sui spin, melato stigma che se stua, se verse, che me varda? Toccherà sentir quel che non se sente, non se sa e non se sa varà, quel che l'è, non l'è, che il podaria anche esser, ma quel che batte come manda il niente, che resta muto ma co sento lengue. Toccherà creder, mestegando il can che ne governa, che l'alt s'era in paradisi indati in gamba, sperar, esser sicuri che un quid de noi bevendo il ciaro quadrarà dea e finalmente il gran mistero del sercio che se sera. Le piove spetten all'istà, vien presto notte, de novo se sfadiga par piaser nelle ombre, non sferuzza il tose in preghiere, querte de consigli, tase la gran macchina de affetti sfioriri dentro il vaso, un grop de giorni cancea le topeche ultime, ma no pol scalpei de temp su ambre de memorie, su ti che bianco cavainte glorie la casa, sul mat cordevol che il corea la val col russac de sas, bel del somatio, del suo immortal esser de acqua, fiol de temporai che brazza le montagne e furiga le terre, no pol, e finché resterò paron delle parole d'oro, ti te sarà regina del sol alt, meste garadische dan amaro in cea al blu de agenziana e medega aiutando. Te era stata, te era, te sarà, te sé. C'è il fondo, raspe de boschi impie, e il cor del bel pensa par maraveglie de but che fiamma sora i pra. Febbre de sol, mi si ha dal fret che ponde e gaede ciclamin, lontan dal di. Acqua de piera e jas, che teca in viero musco e detrute, ho vist e ere in un chissà silenzio fiol de a montagna, ciapà in tel zogo che interroga le stee e tase in gloria, ere. E na par de ti restada in mi, come na guas de perla, ridea in nove perfezion tornada viva. El vent pisec, muinando, scesene, salvea misteri, sest, rason, dentro la ex picciara del disegno. E note eras la negada nuva, fierun che navega par l'aria, ma radisada anima che svoa col lucide farfalla, luce che venia dai post del mi, cavalcando il scuro. Gronde sospiroi le ancora ambarde case che speciano odor del fien, antroi sbirlà che va par le campagne do bas par là, anche buca. Se le sisie fa il ni con l'aria fina, co piove e succhera de fresche il bosc de lana, torne che in maruc de vent, peset de ombria sposete ae rive del tomis che sana, impissete fioret de luna alle murete, nien pra, recia de gevero che scolta, scuret de biava e tere che si immama, scoversi el scur che sera, che te sa, te pol, de uro exo, e te darò manina. Cari amici, ecco era l'ultimo pezzo di Luciano Cagnato, tratto da In un gorgo di fedeltà, dialoghi con 20 poeti italiani di Maurizio Casagrande, edizione Il Ponte del Sale. Quindi ricordiamo Marco Munaro, un grande saluto e un grazie per questa possibilità che ha concesso a Radio Alma la tela sonora. E poi Giulietta vi voleva ricordare l'evento di venerdì prossimo. Niente, venerdì prossimo ci diamo appuntamento alle 8 puntuali come al solito per continuare per seguire il filo rosso ideato da Anna Maria Farabi. Questo percorso suo personale un po' autobiografico, un po' artistico, che ci conduce ad attraversare un po' questa tela sonora che stiamo tessendo attraverso le sue pagine. Questa sarà quindi la seconda pagina. Ricordiamo che la prima è stata per Michelangelo Camelliti di Vito Colle, e poi quindi venerdì prossimo ci sarà la sorpresa della seconda pagina. Esattamente. Ascoltiamo ancora un po' di musica, sì, per chiudere in leggerezza. In leggerezza con sempre il nostro amico Clifford, Paul Clifford, che salutiamo. Ciao.